Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. L'Italia, un rito azzurro. Affidano la sorte dell'Italia al Tevere. Non chiediamo. Sembrano? Sembra rincoglioniti comunque. Chiedilo un po'. Chi siete? Chi siete? Non si può sapere. Chiedilo a questi un po', sono curioso. Cioè non basta che rompono le palle per strada, ma anche sull'arco. Chiedi a questo qua. Chi siete? Signore, chi siete? Cosa fate? Chi siete? Che fate? Non si sa. Vi ho offerto la presa diretta di quella che è stata ieri parte della mia passeggiata in bicicletta sul Lungotevere. Passata l'isola Tiberina, c'era una calma idilliaca, era una bella giornata, era sul far del mezzogiorno, assieme ad altri fortunati camminavamo su una delle poche piste ciclabili percorribili della città, quando improvvisamente mi sembrava un incubo. Comincio a sentire un mio figlio un odore di zolfo nell'aria. Papà, c'è odore di zolfo. Ma cosa sarà mai odore di zolfo? Saremo già entrati all'inferno probabilmente. E vedo improvvisamente una nuvola di fumo azzurro venire dal Tevere, dalla parte opposta, dalla parte della Magliana, tanto per capirci, più o meno. E vedo arrivare tutto un corteo di barche, di motoscafi, di panfili, di barchette, scortate anche dalla guardia costiera. E c'erano dei signori, delle signore, delle signorine, tutti vestiti di bianco, con in mano dei fumogeni azzurri. Abbiamo chiesto noi dal Greto in bicicletta, ma chi siete, cosa fate? Non sapevamo, pensavamo un attacco alla città, delle truppe che approfittano della mattinata per assalire Roma. No, erano tifosi che, non potendo andare lungo le strade a fare il consueto casino anticipatorio alla partita, che poi è stata gloriosamente pareggiata, quindi questa mattina si svegliano tutti felici e pregni di orgoglio nazionale, andavano nell'unico luogo tranquillo a calpestar Pantegane e Gabbiani sul Lungotevere con dei fumogeni non richiesto, senza nemmeno dire perché erano lì. Gli abbiamo chiesto chi siete, uno mi ha detto pastruiamo i pesci, con aria arrogante, come per dire ma che vuoi tu, ma cosa ti importa, la città è nostra, il fiume è nostro, possiamo andare avanti. Ho visto allontanare questa nube azzurra che sembrava una sorta di nube tossica lungo il Tevere, erano tutti contenti, felici, vestiti di bianco, diranno ah che bella azione che abbiamo fatto, quale orgoglio nazionale. Poi c'era anche un signore che ha detto oh ma cosa fanno, uno ha detto festeggiamo Forza Italia, dice, oh mo cominciamo a prendere San Pietrini, e quindi non volendo assistere a una sorta di guerra civile mi sono mestamente allontanato pedalando. E ho pensato, certo qualche volta viene la tentazione di dire andiamo in un posto tranquillo dove possiamo andare in bicicletta tranquilli, dove nessuno la domenica mattina ci costringe a questi spettacoli. E viene fuori una vecchia domanda che questa mattina vi ripropongo. Ecco, se io avessi la possibilità di riuscire a mandarvi dove voi vorreste, ecco, in quale paese vorreste che io vi mandi? Pensate un attimo, pensate, io vi mando a quel paese, ma quale paese? Ditemi voi, qual è il paese ideale? Con l'Olanda, con le belle vie, che si può andare in bicicletta, in Svezia dove le donne sono così disinibite, naturalmente reminiscenze anni 50, oggi sono disinibite anche a Piazza Indipendenza, non è quello il problema, ma ognuno ha dentro di sé un paese ideale dove si possono fare cose che nel suo paese non si può fare. Ecco, ditemi dove vorreste andare e soprattutto a fare cosa, e cos'è che non potete fare qui che fareste altrove? 800 24 0024. In Italia i politici vanno in giro con scorte, sirene e auto blu. In Danimarca vanno in Parlamento in bicicletta. In Italia le donne sono iperproblematiche, si concedono solo dopo aver ridotto l'uomo a uno zerbino. Nel nord Europa sono molto più dirette e disinibite. In Italia se giri in auto ubriaco e ammazzi qualcuno, quasi sempre la fai franca. In America finisci dritto in galera. 800 24 0024, cominciate a chiamare e a farmi sapere, perché io sono molto curioso. Io in realtà non ho un paese preciso in testa, ho una sorta di terra ideale, una sorta di altrove composto di tanti vari paesi. È un posto dove la domenica mattina si può andare tranquillamente in bicicletta, ma la domenica notte si può uscire e fare chiasso, nessuna vecchia ti tira le ciabatte dalle finestre, nessun vecchio ti rovescia il suo rinale sulla testa. Vorrei un posto dove c'è l'aria pulita, naturalmente, vorrei un posto dove la gente sorride, vorrei un posto dove io possa a girare vestito anche con i pantaloni corti, le scarpe con i lacci, i calzini a righe, come faccio senza che nessuno rida e mi indichi: ah, esibizionista, chi ti credi d'essere tu che ti vesti così? Vorrei un posto dove la gente potesse stare tranquilla, vorrei un posto dove ognuno può fare quello che gli pare, ma quello che gli pare non debba necessariamente io vederlo, lo faccia invisibile, sarebbe bellissimo. Vorrei un posto con un telecomando in cui le persone potessero apparire e scomparire a mio piacimento. Vedete quanto sono esigente, non so se esiste un posto del genere. Vorrei un posto con l'aria profumata, che io scelga. Oggi vorrei l'aria che sa di gelsomino. Ah, già adesso sa di gelsomino. Le notti romane sono piene di profumo di gelsomino, ma fra un po' verrà quell'orribile odore di pelo di cane bagnaticcio, di cacca di cane e di gattara incavolata, se tu provi soltanto a alzare gli occhi a dire: ma signora, perché lascia per terra quello schifo sotto gli alberi? Vedete, ho una visione della città ideale proprio da Umarell. Vorrei la città pulita, la città perfetta, la città profumata, la città lieta. Ma io sono ormai arrivato all'ultima soglia dei miei desideri. Ma se voi avete desideri più vitali, desideri più avanguardistici, ditemi qual è il posto ideale in cui vorreste andare e soprattutto a fare cosa. 800 24 0024. In Italia i calciatori che fanno le sceneggiate fingendo di subire un fallo vengono approvati. In Inghilterra sono fischiati dai suoi stessi tifosi. In Italia i bambini sono isterici e viziati. In Svezia calmi ed educati. In Italia dell'amor di patria ce ne freghiamo. In Francia il senso dello Stato è il primo valore nazionale. Ecco, datevi una mossa a telefonare, che ho quasi finito le clip e poi non so, posso raccontarvi qual è il mio paese ideale, ma senza di voi non la posso fare questa trasmissione. Mi sembra che ognuno si lamenti la mattina, il pomeriggio, la sera, che Italia, povera Italia, che paese, dove andremo a finire? Ecco, mi dica adesso cosa vorrebbe fare che non può fare e dove soprattutto vorrebbe essere mandato per poterlo fare tranquillamente. 800 24 0024. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Dove vuole essere mandato, Marco? La rispondo immediatamente perché ho un'idea molto chiara. Oh, perfetto. L'Irlanda. Che è anche nel nostro girone, perché è un paese dove c'è molto rispetto dello Stato per i cittadini, le tasse sono basse, la gente, l'età media più bassa d'Europa, e per il verde e per la cura di quello che è attorno, diciamo, alle persone nelle città c'è una grandissima, un grandissimo rispetto, una grandissima attenzione e anche soprattutto alla persona proprio, cioè lo Stato difende i suoi cittadini e i cittadini si sentono parte di uno Stato. Lei che lavoro farebbe in Irlanda nel caso io potessi mandarcela? Beh, io vorrei continuare a fare il mio lavoro, che è quello dell'attore doppiatore, diciamo, sarebbe molto carino. Ma certo, un doppiatore in italiano in Irlanda avrebbe probabilmente un mercato molto ristretto. No, so recitare anche in inglese, l'ho già fatto in alcune produzioni, quindi insomma si può fare. C'è a dire che è un paese molto cattolico, lei è credente, praticante? Io sono più calvinista che cattolico. Ma piove anche molto, lei soffre l'umidità? No, ha ragione, è vero, ha ragione. Vede, ci sono dei difetti, ma compensati molto bene da come si vive. Ma anche l'Australia, per dire la stessa cosa, c'è un paese. Quindi dove lei, simulando un culto religioso che in realtà non le appartiene e mettendosi la maglia alla salute, andrebbe a doppiare anche in inglese in Irlanda? Assolutamente sì, tutta la vita, assolutamente. Anzi, guardi, l'Irlanda è un paese per cui vale la pena anche di morire, come dimostrano i suoi patrioti, perché... Ah, quindi vorrebbe anche fare il martire irlandese? Guardi, le dico, se lo dico è perché ci sono dei motivi. No, no, no, io sono convinto che lei probabilmente... Non è una stupidaggine. No, no, ma io la credo perfetta. Quindi lei, il suo amore per l'Irlanda arriva al punto tale che nel caso si riaccendesse una lotta fratricida all'interno di quel paese, lei saprebbe dove schierarsi, con chi schierarsi e andrebbe anche a mettere le bombe. Bisogna che si riaccenda, è già sempre accesa, solo che i media non ne parlano. Comunque sì, la risposta è sì, sicuramente sì. Va bene, Marco, la sua mi sembra una scelta totale globale. Ultima domanda, perché non ci va in Irlanda? E questa è una domanda a cui non ho ancora una risposta, però lei mi sta veramente, mi sta facendo, guardi, ormai manca poco. Scusi, può bere tutta la birra che vuole, può subire le gentilezze che vuole, può anche offrire il suo giovine petto di eroe al piombo nemico, cosa vuole di più dalla vita? No, vada in Irlanda. L'unico motivo per cui non ci vado è perché io faccio il lavoro che mi piace per poche persone, che lì, sono che privilegiato lì, a fare il lavoro che faccio. Non alzerebbe una lira, quello è il problema, purtroppo. Però... finirebbe sotto un ponte preso a calci, sì, fradicio però... di birra. Però ci sono dei servizi anche per le persone che non hanno poco reddito, che sono molto diversi dai la sbatterebbero nostri. Dentro a malo modo, vabbè, ma no, vabbè, dividerebbe la cella con terroristi che stanno dentro da anni assatanatissimi. No, non è vero, dai. No, le dico, le faccio il quadro, vabbè, no, in bocca al lupo Marco, in bocca al lupo. Andrea, sì, buongiorno. Dove vorrebbe che io la mandassi? Se potesse, ne potremmo mandare in Costa Rica, per esempio. Costa Rica, perché in Costa Rica? Ma il Costa Rica è un paese abbastanza unico nel suo genere. Lo conosce bene? Lo conosco bene, nel senso che l'ho visitato, non ci ho mai vissuto. Però posso dire che è un paese che ha, per esempio, rifiutato lo spending sugli armamenti. Quindi c'è anche una profonda motivazione sociale, ideologica per andare. Beh, ideale, diciamo, per andare. Sì, ideale. Poi la cosa che... partiamo da questa questione ideale. Poi cos'altro c'è in Costa Rica che non c'è in Italia? Beh, per esempio c'è una percentuale di territorio del paese dedicato a parco nazionale, cosa che in Italia è anche... un altro motivo, diciamo, che aumenta, esatto, la qualità della vita e della sensazione di partecipare a un impegno civile generalizzato. Cos'altro c'è, esatto, in Costa Rica? Poi udite, cari ascoltatori e ascoltatrici di Melog, Costa Rica è l'unico paese al mondo il cui ordinamento civile prevede che il matrimonio possa essere contratto a tempo. Quindi lei può prendere un costaricano o una costaricana e stabilire un legame matrimoniale a tempo determinato, un cococò. A tempo determinato. Esatto. Lei ha stretto di cococò con persone della Costa Rica? No, purtroppo no. Ha avuto amicizie, amori, affetti? Neanche, ma non si può avere capre e cavoli. Lei ha una sorta di visione francescana, irenica dell'esistenza, pensa al territorio, pensa ai non armamenti, sì, può anche pensare all'orrendo motivo per cui molti italiani vanno anche in Costa Rica. Sì, vabbè, ma quello, diciamo, ce ne sono altri paesi per cui gli italiani... Senta, com'è l'istruzione in Costa Rica? Il welfare esiste? Il tasso di istruzione in Costa Rica è il più alto in tutto il continente americano, Stati Uniti inclusi. E c'è assistenza sanitaria? Assolutamente sì. Insomma, è un paese che ha fatto i conti... E cosa la trattiene dall'andare a vivere in Costa Rica? La famiglia e i figlioli. Ah, lei c'ha già una famiglia in Italia? Io ho dei figlioli in Italia, per questo... E non si può portare anche loro in Costa Rica? È un po' difficile. Perché? Sono piccoli. Quanto è? Un posto così meraviglioso crescerebbero in un ambiente ideale. Pensi, invece che avere quei polmoncini pieni di catrame che avranno qui in Italia, respirano, esatto, aria pulita, non dovranno mai combattere una guerra, nemmeno un'azione di pace, stanno felici. No, sì, esatto. Sa perché lo mando questo? Perché tutti abbiamo un paese ideale, ma poi nessuno ci va mai. Mestamente passiamo quel poco che abbiamo da vivere, perché è veramente un soffio. Io ho viaggiato molto nella mia vita e ho soprattutto vissuto all'estero molto, in paesi per fortuna molto, molto civili, più civili anche del nostro. Questo è un po' la chimera del futuro. Diciamo che ci piace immaginare un paese ideale, magari abbiamo tutti in testa un paese ideale, una città ideale, un luogo dove ci piacerebbe vivere, ma alla fine non si sa perché il luogo ideale rimane tale perché da noi poco, scarsamente o per nulla frequentato. 800 24 00 24. In Italia, anche se attraversi sulle strisce pedonali ti devi sbracciare, in Olanda si fermano a 10 metri appena ti vedono. In Italia sugli autobus stai sempre in piedi, appiccicato alle ascelle degli altri. In Inghilterra ti siedi sempre. In Italia, se non paghi le tasse e non dai scontrino, nessuno ti dice nulla. In America finisci in carcere e tutti ti disprezzano. Fabrizio. Sì, buongiorno. Devo mandarla da qualche parte, dove la mando? Mi mandi in Argentina, per cortesia. Perché in Argentina? Perché è un posto meraviglioso, gente che apprezza quel poco che ha, e un grande senso della patria e della famiglia. Pronto? È morto Fabrizio. Vediamo di recuperarlo, Fabrizio, perché vado a mandargli qualcosa, anche in nome di Dio, padre e famiglia. In Argentina molta gente sfascia dei bei voletti dagli aeroplani per atterrare dentro il mare. Questo probabilmente non era un momento felice, non è detto che questo debba segnare sempre la sorte di un paese così generoso verso di noi. Luca, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ecco, mentre recuperiamo il nostro amico che vuole andare in Argentina, lei dove vuole essere mandato? Singapore. Singapore, vediamo perché, cerchiamo di capire perché. Perché è una città molto vivibile, nonostante ci siano diverse razze, si riesce a stare molto bene. È un crogiolo di etnie, per questo le piace. Ma sì, e nonostante tutto sono tutti contenti, stanno bene, disoccupazione pari a zero, tutti lavorano, tutti hanno casa. E si può camminare di notte senza essere sgozzati. No, no, è accaduto a Campo dei Fiori pochi giorni fa, che succede qua, non è che... Purtroppo succede non solo qua, ma succede. Insomma, è quasi una terra promessa. Quindi le piace, questo senso di cosmopolitismo, che è un luogo in cui non esistono discriminazioni, c'è posto per tutti. Sì, si sta un po' pigiati, si sta un po' stretti, però ci sono regole sociali e si può sia guadagnare che fare una vita tranquilla, insomma. Mi piace molto in questo paese. Lei lo conosce bene? Abbastanza, sì. Ci vado per lavoro di tanto in tanto e mi trovo molto bene. E cosa la trattiene a mollare baracca e burattini e andarsene a Singapore? La famiglia ormai è radicata. Sono già nonno, anche se ho solo 46. È proprio l'occasione che uno è già nonno ha dato, potrebbe anche andarsene, no? No, non posso. Quindi anche per lei esiste un paese ideale, ma... ammantato, circondato la nostalgia di un luogo in cui uno sa che potrebbe essere felice, ma nulla fa per raggiungere questa felicità. E questo è una costante che sto osservando questa mattina. Ogni settimana varie richieste di persone che vogliono andare a vivere in Giappone, quindi questo video è anche per rispondere a tutte queste richieste. E premetto che io non ho mai lavorato in Giappone, quindi niente, io sono stato in Giappone 7 mesi, ho un po' capito. La cosa principale è: chi vi può aiutare per trovare lavoro in Giappone? La risposta è nessuno, nel senso che se voi scrivete a una persona che lavora in Giappone, a meno che non date qualcosa in cambio, che non è denaro, ma può essere amicizia, può essere, però amicizia vera, no? Se voi non date qualcosa in cambio, ma chi glielo fa fare a uno che lavora in Giappone di contattare voi? Sono problemi. YouTube è pieno di persone che vengono, che rappresentano macerate il loro dilemma, il loro rovello, questa sorta di insanabile senso di perdizione per il fatto che esiste sì un posto che noi individuiamo come il posto in cui si potrebbe sviluppare la nostra perfetta felicità. Ma non ci muoviamo mai, restiamo lì, come in quel meraviglioso film della Wirt Müller, i basilischi che rimanevano tutta la vita, questi ragazzi nel bar, nella loro desolata provincia della Basilicata, passano davanti le occasioni, uno di loro ha il modo di incontrare una bellissima donna bionda, una bella macchina sportiva, cito a braccio, non vorrei sbagliarmi. E a un certo punto la donna lo invita: vieni con me, ti porto via da qua. E gli amici: ma dove vai? Ma che vai a fare a Roma? Perché vai con questa? Ma sta qui. E il basilisco rimarrà lì a crogiolarsi nel suo sole, nella sua polvere, nella sua neghittosa vita quotidiana. Donatella. Buongiorno. Allora, la mia è un'esperienza, non è diretta ma indiretta, di un amico che per reati fiscali aveva preferito scappare in Costa Rica. Basta andare in Vaticano. Uno vuole un paradiso fiscale, non occorre andare in Costa Rica. No, lui era scappato perché l'avrebbero probabilmente arrestato, ma una volta che si è trovato in Costa Rica, pur nella comodità del denaro che gli avrebbe consentito una vita insomma comoda, ha preferito tornare in Italia, stare con gli italiani nel suo paese e affrontare eventualmente la galera proprio per il tipo di vita, nel senso che... probabilmente siamo figli comunque della nostra chi patria, stumare, chi sto sole, cosa, certo. È preferibile farla. Le tagliatelle dire... della mamma, come si fa a star senza? Quel buon odore di ragù che soltanto la mamma sa fare, lo so. No, sono ma problemi. Anche l'unica pianta che uno conosce, anche dico, nella solitudine dell'uomo. Io mi trovo comunque in una città che conosco le leggi, seppur sbagliate, ma si può fare qualcosa magari per migliorarle, magari, chi lo sa. Però sempre a casa tua, altrove magari ipotizzi. Ma fratello, non è che abbiamo tante occasioni di vivere altre vite, perlomeno esatto. Di certezza abbiamo soltanto questa. Le parla una persona che ha le radici, che non riuscirà. Io non solo non me ne andrei dalla mia città, ma nemmeno dalla mia stanza, e questo, però, questo è la mia palese stato temporaneo, spero patologico, però per questo vorrei capire gli altri dove vorrebbero andare. Quindi lei è convinta che, come il suo amico è andato in Costa Rica per un incidente passeggero, si è trovato benissimo, ma è comunque tornato in Italia, ha affrontato il carcere non per un'improvvisa ritorno di dignità e di appartenenza civile, ma perché? Perché non poteva rinunciare al suo paese. 800240024, Giovanni. Sì, sono io, Giovanni. Sì. Buongiorno. Qual è il posto ideale? Guardi, io a me mancano qui in Italia, io vivo in una città del sud, a Taranto, dove mancano le piccole cose, quindi è semplice apprezzare. Cosa manca a Taranto? Tutto. La prima cosa? Mancano che ti lascino passare sulle strisce pedonali. Ah, il senso civico. Sì, il senso civico. Ma in tutta Italia più o meno è così, più o meno, gran parte del paese. Cioè, stare alla fermata del bus e aspettare un'ora il bus e poi non passa perché. Ma a me capita quasi quotidianamente, guardi, sto Roma. È saltata la corsa. Cioè, le cose stupide. Io sono 2 anni che vado in Spagna in vacanza, prima a Barcellona, poi a Madrid, sono rientrato da poco. Non so, io apprezzo queste piccole cose, cioè arrivare alla metro e sapere che tra 2 minuti hai il tuo mezzo, alla fermata del PUM sapere che dopo 10 minuti hai il tuo bus, arrivare... Poi pensa, lei non è stato in Austria, non è stato nei paesi scandinavi, non è stato in tanti altri paesi, è rimasto colpito da Barcellona e Madrid, che poi sono 2 città abbastanza antitetiche, che sono però sono sempre anche, città... Anche in Inghilterra sono stato, sono stato a Londra. Non è... Però a lei piace una città spagnola in particolare? No, lei... sono stato a Parigi, a me piace più, cioè, quell'area di Madrid, stare seduti ai tavolini e nessuno ti dà fastidio, almeno così. Vabbè, lì fa parte del costume nazionale, ci si siede a un certo punto, si beve e si mangiano tapas e schifezzuole varie e si passa il tempo. Sì, indipendentemente dall'aspetto alimentare, sono quei posti civili su quello l'Italia non la cambierei. Sono quei posti civili dove non si va a cena alle 7:30 di sera, come accade in molte nostre città. No, ma lì sembra che sì, però lei di cosa vivrebbe? Ecco, lei, se andasse in Spagna, messo che oggi io potessi mandarci, di cosa vivrebbe? No, io sono pensionato, quindi potrei vivere di pensione. Ah, ma allora perché non ci va? Scusi, cosa la trattiene? Perché ho la moglie che lavora qui, i figli Vabbè, scusi, non sono autonomi moglie e figli ormai? Guarda, è da pensarci. Le faccio un esempio truce, metta pure le mani dove vuole, metta che lei le prendesse un colpo adesso, loro continuerebbero a vivere tranquillamente. Sì. Continuerebbero a vivere tranquillamente. E allora, scusi, prenda... bypassi la sua pensione su un conto in una banca spagnola e se ne vada, che sta a fare lì? Dovrei scegliere una banca giusta in questo periodo in Spagna. E vabbè, tanto dove va, siamo in Europa, Spagna Italia, Italia o Spagna, non so bene come va a finire. Comunque sia, non è questa la materia di questa mattinata, però vedo che ognuno di noi, pur avendo anche le possibilità, come questo signore pensionato, potrebbe andarsene quanto vuole, aspettano cosa? Che arrivi la falce improba e poi ci impedisca anche soltanto di sognare? A tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Email melog@radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Dove trasferirsi dall'Italia? L'Inghilterra, diciamo, per quanto riguarda Londra, la consiglio perché è molto più facile, diciamo, semplice rispetto all'Italia trovare lavoro, anche semplicemente come barista, cameriere e o commessi. sempre parlando con ragazzi italiani del periodo in cui sono rimasta a Londra, mi hanno detto che è anche abbastanza semplice da questo punto di vista riuscire a fare diciamo carriera, nel senso che da ragazzo che sta facendo apprendistato potreste riuscire ad arrivare a, diciamo, gestore di uno dei vari punti Starbucks, Caffè Nero, Pret a Manger, insomma, o quello che è. Quindi comunque appunto è molto più facile proprio. Ecco, un altro sogno irrealizzabile, andare a fare il cameriere a Londra. Sai, sono andato a fare il cameriere a Londra. Mio figlio è andato a fare il cameriere a Londra. È una brava ragazza, pensate che è andata a fare la cameriere a Londra. Qui sono altri luoghi comuni, dei luoghi ideali. A Londra chiunque va, c'è la disoccupazione, può fare il cameriere, si vive, qui in Italia non è possibile. Andateci a fare il cameriere a Londra, poi tornate e raccontatemi. Comunque stamattina diamo luogo ai desideri, diamo libero sfogo ai sogni e stiamo vedendo che in realtà per tutti c'è un luogo ideale, anche molto dettagliato, molto circostanziato, in cui vorrebbe vivere. Ma dunque, se io dicessi ecco il biglietto, vai, ti ci faccio andare, tutti mi dicono o c'è una moglie, o c'è una famiglia, o c'è una nostalgia, o c'è un ormai dove vado. Io dico questo, non alieno dal provare io stesso queste stesse cose, e mentre parlo con voi, ascolto i vostri racconti, concretizzo in me l'idea che bisognerebbe tagliare, portarsi una motosega e tranciare ogni legame emotivo, che in realtà sono soltanto fittizi, sono soltanto dei legami che noi ci creiamo, perché se c'è un luogo ideale, se l'abbiamo individuato, se abbiamo capito che lì noi potremmo stare felici, perché non ci andiamo? 800 24 00 24. Fabrizio, l'abbiamo recuperato, lei voleva andare in Argentina. Io vorrei andare in Argentina. Ma la conosce perché... l'Argentina o dice così? Sì. No, ci sono stato in viaggio di nozze con mia moglie. Non è di solito quando passano gli anni, non è quello il ricordo che ci porta a rifrequentare un luogo. Però è stato un viaggio di nozze un po' sui generis, nel senso siamo stati solo io e lei con una macchina a girare per la Patagonia. E... Ah, in Patagonia, beh, c'è stata una traccia letteraria allora molto più... Sull'orme sì, di Chatwin. Lì hanno un, dicevo prima, un senso della patria, un senso della famiglia esagerato, nel senso che hanno molto meno di noi, evidentemente, ma quello che hanno se lo godono fino in fondo e vivono giorno per giorno senza stress esagerati. Quindi in Patagonia lei vorrebbe proprio andare? Ecco, quello. A me piacerebbe andare in un posto dove mi posso godere la vita invece di subirla, e non è detto, siamo tutti e due concordi, e non è detto che questo passo, andando avanti così, potremmo anche farlo, perché comunque non, qui la vita sta diventando insostenibile da tanti punti di vista, quindi potrebbe essere la soluzione ideale quella, insomma. È un po' in un ritiro, come si dice. Ma cosa aveva portato a scegliere la Patagonia come luogo? Noi ci piaceva il Sud America. Lei aveva, cioè mia moglie ha dei parenti nella parte centrale dell'Argentina, che non è ancora Patagonia ma è del Chubut. E allora abbiamo unito due cose e abbiamo fatto 20 giorni di drive assoluto, arrivando fino alla Terra del Fuoco. E poi 5 giorni a parenti, come si usa dire, godendoci un po' il clima familiare per rientrare poi purtroppo nella routine quotidiana della vita, insomma. Ecco, cosa l'impedisce oggi di andare in Patagonia? Il lavoro, problemi di lavoro? Senza giri di parole, il coraggio in questo momento, nel senso che dovremmo, noi tutti e due lavoriamo, abbiamo per fortuna lei un lavoro fisso, io sono libero professionista. Potrei fare il mio stesso lavoro anche in Argentina, ci manca solo, come diceva lei prima, con molta schiettezza, come sempre fa, prendere biglietto, bagagli, armi, bagagli, burattini e prendere e andare via. Lei quanti anni ha lei, Fabrizio? Io 39, beh, siamo ancora... 35, diciamo, sì, siamo in tempo. Un qualche anno per pensare ce l'avreste? Sì, ce l'abbiamo. Poi siamo ancora soli, per cui non avremo vincoli, diciamo, filiali. Ah, siete, non avete vincoli... nemmeno i figli. E cosa vi trattiene ad andare in Patagonia? L'ho detto, il coraggio di prendere la decisione senza solo parlarne, ma dire ok, organizziamoci, fra 6 mesi andiamo via, cominciamo a vendere tutto, cominciamo a trovare una sistemazione. Ecco, questo è psicologicamente sarebbe il... Ma secondo lei, Fabrizio, voi che siete giovani, liberi e felici, potreste farlo. Qual è il motivo per cui uno allucina un luogo della felicità? Avrebbe tutte ci si potrebbe andare, perché figuriamoci, oggi penso non esista rimpianto, cosa lasciate in fondo, avrete un lavoro, sì, ma di fronte a felicità è un luogo in cui si può vivere anche con molto meno, potreste partire. Cos'è che ci blocca? C'è una sorta di ricatto materno della patria d'origine che ci impedisce di andarci. Io ho fatto giorni fa una trasmissione sul mammismo, sui mammoni italiani, anche la nostra patria, la grande mamma, che ci pone un ricatto emotivo e ci impedisce di andarcene. Guardi, potrebbe essere la risposta. Teniamo conto che in Argentina il 45% dei residenti sono tutti figli di emigranti italiani e il 45% spagnoli. Quindi andremo comunque a stare in un posto dove bene o male i legami con la terra natia sarebbero comunque sempre... Ma allora non era una scelta estetica, ci andavano perché morivano di fame, non avevano altro. Allora sì, per noi sarebbe... comunque andare in un posto che comunque ti ricorda casa tua, anche se con aspetti ambientali e naturalistici. Quindi il luogo ideale deve anche ricordare un po' casa propria, come la moglie deve ricordare un po' la mamma. Vedi, poi andiamo sempre. Ma non troppo, però, non troppo. Immagino. Io già ho lasciato casa mia, io sono figlio unico e ho lasciato i miei genitori a Torino per trasferirmi a Iesi, nelle Marche, e l'ho fatto 7 anni fa. È stato un distacco anche quello, adesso sono solo 600 chilometri, però da figlio unico, mammone probabilmente, per me è stata una grande azione. Allora, vediamo se da Iesi il prossimo passaggio può essere verso la Patagonia. Grazie. Paola, buongiorno. Pronto? Sì, Paola. Eccomi qua, ciao Gianluca. Guarda, ho deciso che voglio cambiare vita. Oh, finalmente una che lo fa, non sì. Lo pensa soltanto. Credo che la mia decisione sia molto concreta, nel senso che mi sono iscritta ad un corso che mi porterà a fare un esame molto difficile per poter insegnare italiano agli stranieri. Successivamente farò un altro corso che si terrà in California per insegnare italiano proprio negli Stati Uniti. Quindi tu vai a insegnare italiano in California? Guarda, per ora è la cosa più concreta che posso pensare di poter fare, perché insegno inglese in Italia. Beh, insegnare inglese in California non avresti molto mercato. Avevo difficile e ho un figlio che per fortuna ha frequentato una scuola americana a Roma. Quindi porti dietro il figlio? Certamente, mi porterei il figlio e il mio compagno. Anche il compagno ti porti? Dunque, il mio compagno è molto perplesso rispetto... Lascialo a casa, vai a fare in California col compagno, è come dire, non so, andare a Disneyland e poi, che ne so, mettersi giacca, cravatta e la bombetta e il bombrello. Sì, siamo adulti, lui avrà la possibilità di scegliere quello che vuole fare. Lì c'è un'ampia scelta, adesso non vorrei gettare sale nella piaga che già immagino aperta, ma se andate già incerti... Ti conviene partire a scaglioni, probabilmente. Certo, certo. L'idea è provare a fare un'esperienza per 2 o 3 anni e poi eventualmente dovessimo trovarci bene e rimanere. Vabbè, ti auguro che il sogno californiano ti renda felice, però almeno qualcuno che lo sta facendo concretamente. Sta operando per andare nel luogo dei sogni. Invece gli altri lo immaginano, lo sognano, ma non fanno nulla per poi andarci. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Venire in Australia come turisti, però lavoratori, un anno, fino a 30 anni, ragazzi dai 18 ai 30 anni. Dunque, poi c'è un diplomato geometra di 23 anni, mi scrive il papà. Dice vorrebbe fare l'esperienza lavorativa in Australia. Beh, il momento giusto, a 23 anni, momento giusto, potrebbe venire con un working visa di un anno, cercare un lavoro. E deve vedere però se tuo figlio è disposto a fare anche l'operaio prima in manovale e poi dopo un po' alla volta entrare in quelli che sono i meccanismi per fare il geometra veramente. È così che si parte qua, c'è bisogno di una speciale licenza, ma questo verrà tutto spiegato qua. Uno mica può pensare ad andare a fare il geometra in Australia così. Deve fare impastare qualche bella tonnellata di calcina, portarsi qualche mattone sulle spalle e poi vedere forse se riuscirà a fare il geometra. Vedete, internet è pieno di consigli per il luogo ideale, ma c'è sempre una sorta di passaggio stretto, di via dolorosa, c'è sempre un perché, un ma, dietro la perfezione del paese ideale che noi immaginiamo, in cui vorremmo andare a vivere, in cui vorremmo lavorare, c'è sempre qualcosa. Una volta immersi nel sogno, non siamo sicuri se poi questo sogno appagherà il nostro desiderio. È la paura del disincanto, è la paura della disillusione, della caduta dell'immaginario. E per questo tutti noi abbiamo un paese ideale in cui andare e nessuno di noi, o pochissimi di noi, fanno qualcosa per andarci veramente. Ci sono anche degli sms con un profondo tono di satira politica. Qualcuno dice: vorrei andare in Parlamento in Italia, dove tutto costa poco e tanto pagano gli altri. Questo per lui sarebbe il paese ideale. Sì, è una dimensione parallela, basterebbe passare lo Stargate che sta a Piazza Colonna e tutti ci sentiremo probabilmente in un luogo ideale. Ma non è così, non sarà mai così, non immaginate che sia così. 800240024, a raffica, sentiamo un po' di aspiranti fugaci. Angelo. Buongiorno, sono Angelo. Dove vorrebbe andare? Ma io in Croazia e in Dalmazia, per la precisione. Ci sta già andando, c'è andato, sta per andarci? Sì, ci stiamo, diciamo, dopo la guerra purtroppo abbiamo dovuto, io con la mia attuale compagna, abbiamo risistemato e rimesso in sesto case, terreni e quant'altro. Quindi un bel posto, c'è questa idea di essere pionieri, di ricostruire qualcosa di devastato, quindi questo è il senso. Esatto. Sì, sì, poi vabbè, il posto è incantevole perché somiglia tantissimo alla Toscana, siamo vicino al mare. E lei cosa sta facendo in Croazia adesso? Ma io adesso, vabbè, per lavoro, diciamo, arredo alberghi, per cui sono giro il mondo per la mia professione. Adesso stiamo sistemando un locale che stava costruendo il padre della mia compagna e vorremmo fare un piccolo resort con le camere. E andrete a vivere là? E andrete a vivere là voi? Sì. Penso, se riesco, tra un anno e mezzo dovrei arrivare. Va bene, lei comunque ha in qualche maniera concretizzato la capacità, la possibilità di frequentare il luogo dei sogni e di continuare a vivere e lavorare. Michele? Sì, pronto, Nicoletti, buongiorno. Sì, lei dove vorrebbe andare? Io vorrei, ma lavorativamente rimarrei anche a Milano, perché amo il mio lavoro, faccio il tassista, tra l'altro sto guidando col telefono in mano e non vorrei che la polizia mi vedesse. Rischia la licenza, quindi non lo faccio. No, esageriamo, però. Vabbè, dei punti patente non fanno bene. Sì, però vabbè, io andrei a vivere per questioni puramente climatiche a Rio de Janeiro. Ah, per il clima, certo, naturalmente. Fondamentalmente per il clima, sì, no, guardi, al di là di ogni mitologia sulle donne brasiliane. Lo dice lei, non ho nemmeno pensato un attimo. Sì, ero convinto che ci andasse il clima, infatti c'è un ottimo clima Rio. Io andrei per il clima, per la città, perché nella mia unica visita a Rio non, la gente non ti giudica. Anche per la gente è sempre allegra, c'è la musica, c'è tanta felicità per quello. La musica brasiliana, c'è molta natura e penso sia anche la città più forse più panoramica del mondo. Certo. E quindi dipende dal punto di vista, se la guarda da una favela è una cosa, se la guarda da un albergo è un'altra, questo dipende. Sì, bella, ha ragione. Diciamo che però è bella, tutti sono allegri, contenti, ridono. Vabbè, è chiaro, perché non ci vai io? Perché amo il mio lavoro e non farei il tassista a Rio de Janeiro, ma al più lo farei a Milano o a Monaco di Baviera. Vabbè, lei c'ha una tripartizione di desideri, il tassista a Monaco di Baviera e andare a Rio in vacanza. Sono due cose molto antitetiche, però almeno dà una complessità nel suo luogo dei sogni. Giuseppe. Ciao a tutti, io chiamo da Ravenna, io ho 29 anni, vorrei andare in Danimarca, a Copenaghen possibilmente. Ci sono stato, a vivere proprio, no? In vacanza. Sì, a vivere, ci sono stato già in vacanza con la mia ragazza e praticamente c'è un senso civico che qua ce lo sogniamo. Se sei in mezzo alla strada con una cartina in mano che non sai dove andare, ti vengono in 4-5 per aiutarti, per chiederti se hai bisogno di informazioni, qua invece al massimo ti girano le spalle per andare da un'altra parte. È un posto dove si fa sport, dove si fa sport che si dice anche con i tuoi amici che vai a lavorare in bicicletta, perché magari abiti a un chilometro dal tuo negozio, ti dicono, ti prendono in giro perché sembra una cosa strana andare in bicicletta qua in Italia, invece là chi lo dice? Pensi, io vado in bicicletta e incontro una flotta di navi con i fumogeni, quindi infatti ecco, poi se vai in bicicletta a correre qui è, ma perché non ci va? Domanda. Perché ho lavoro qui, ho un'attività, un piccolo negozio, ecco. Allora sarebbe anche un po' dal punto di non ci farebbe aprire un negozio là, chiaro. Cristian, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, Cristian, buongiorno. Beh, io andrei in Giappone perché così posso fare il cosplay quando voglio, senza che mi scambiano appunto per la carnevalata. Posso mangiare tutto il pesce crudo, conchiglie e tutto quello che voglio. Ma lei non ha l'anticorpo che c'hanno i giapponesi? No, beh, le verrebbe il verme cattivo che le mangerebbe tutte le budella, come accade a noi italiani. Anisaki, no, certo. La moglie giapponese. Se ah, quindi la moglie giapponese le ha passato l'anticorpo? È immune all'Anisaki? E beh, fortunatissimo. E poi ho la casa, ho tutto, insomma. E perché non ci va, scusi? Molto bene. Non ci vado perché io ho una paura terribile dei terremoti, dei tifoni, perché non ho tempo libero. Basta andare giorni di vacanza. Basta andare a Rimini in vacanza per questa paura, non è che bisogna andare. Vabbè, ma lì sempre, E quindi la moglie giapponese è venuta in Italia e lei non va in Giappone? Io vorrei andare, ho queste paure che purtroppo non riesco a superare. L'altra cosa è che ho un bimbo piccolo e non ho tempo libero per vedermi. Beh, lui in Giappone starebbe benissimo il bimbo piccolo, figuriamoci. Sì, starebbe benissimo, ma infatti adesso andiamo, ma abbiamo brevi periodi, poi torno qui. Qui c'è questo valore del tempo libero che è una cosa incredibile. Lo so, lì sono un po' ossessionati, vabbè, sono giapponesi, mica non può aver tutto. Roberto. Buongiorno. Dove vorrebbe andare? Io vorrei tornare nell'Italia degli anni 50, degli anni 60. Salto cronologico, vorrebbe andare in un'altra epoca, la macchia del tempo. Nella bella Italia anni 50, cosa rimpiange di quegli anni? Io li ho conosciuti, posso raccontarli degli anni 50. Ma io non li ho conosciuti perché sono arrivato poco dopo, però mi sembra che in quell'Italia lì c'erano tutte le cose che lamentavano i nostri colleghi. Pensi, se era di primi anni 50 c'erano anche i casini, pensi un po' che tempo. C'erano casini. Ma i casini, i casini nel senso case di appuntamento. Bordelli. Ci sono anche adesso, magari. Lì erano liberi, andava a Roma, via Mario dei Fiori, entrava, pagava, faceva la basserella. Rimpiange quello? Non lo so, non l'ho provato. Ci pensi un attimo. C'erano forse più speranze, più... Ma guardi, non credo che siano cambiate molte teste dagli anni 50. Io trovo...